Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Dunque, immaginate se King Kong si facesse un completo. Sarebbe di dimensioni esagerate, spalle della giacca enormi, pantaloni che pendono senza forma. Immaginate se in più King Kong scegliesse di farselo confezionare in un tessuto chiaro, che sia ben visibile anche da lontano e non nasconda nulla della sua grandezza. Probabilmente più che un vestito sembrerebbe una grande scatola di stoffa grigio perla. E chissà, forse vestito così King Kong avrebbe avuto una chance in più con Jessica Lange. I presupposti c'erano. Invece tu sei gentile, vero? Tu sei così buono, tenero, buono, scimmione dolce. Noi due diventeremo grandi amici, vero? E invece no, non succede niente. Perché ora immaginate di spogliare King Kong della sua bella scatola di stoffa e di farla indossare a un ragazzo alto, magro e allampanato. Il risultato è che ogni dimensione risulta impazzita. Nel vestito i movimenti del ragazzo risulterebbero surreali, persi come sono nel grande spazio creato dalla stoffa in abbondanza. Difficile distinguere i contorni del corpo, così come diventa difficile comprendere lo scopo di quel corpo, lo spazio che occupa nel mondo. Il ragazzo diventa un fumetto, una specie di eroe di un mondo senza contorni netti, dove il corpo gioca a essere quello che non è, e la testa è piccola, sparisce in mezzo al resto, una piccola cosa rispetto al resto. Per una copertina mi piaceva l'idea di trasformarmi in una bambola. Mi volevo vedere come se fossi una bambola di Ken. Ora prendete questa immagine e trasferitela su un palcoscenico. Tutto è al buio. La folla attende, mormora, muove le braccia, respira e chiama «David! David! David!». Poi dal buio emerge un'ombra, enorme, sproporzionata, proiettata sullo sfondo bianco. Poi, dopo qualche attimo, dallo sfondo una figura reale si stacca e viene illuminata da un faro. È quella del ragazzo con The Big Suit, il grande completo pantaloni che sarebbe piaciuto a King Kong o a Ken. La sua piccola testa emerge dal colletto della camicia abbottonata fino al collo. Il capo si muove come quello di una gallina che sta razzolando per l'aia a scatti. Lo sguardo è vacuo, i movimenti rigidi e resi ancora più strani dall'ampiezza esagerata del vestito. È quello che in pubblicità si chiamerebbe un keyframe, l'immagine chiave di tutto il concerto. Perché di questo si tratta, di un concerto. Reso memorabile da un film dal titolo rivelatore, Stop Making Sense, smettila di dare un senso. La band si chiama Talking Heads, il ragazzo vestito con The Big Suit si chiama David Byrne e la canzone, che nel silenzio inizia a cantare, si intitola Girlfriend is Better. Delle immagini che compongono il lungo ritratto musicale di una delle band più famose a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80, questa del loro leader vestito con una big suit è sicuramente quella che è rimasta di più negli anni. Un abito grottesco e inquietante che lo stesso David Byrne spiega in una specie di bizzarra auto-intervista realizzata in quegli anni. Mi piacciono la simmetria e le figure geometriche. Mi piaceva l'idea che la mia testa apparisse più piccola. E la maniera più semplice per farlo era rendere più grande il mio corpo. Perché la musica è una cosa molto fisica e spesso il corpo comprende cose prima della testa. Certo, perché non cercare di fare apparire la propria testa molto piccola rispetto al resto del corpo? È una tipica affermazione alla David Byrne, l'uomo che per tutta la vita ha cercato di sembrare normale quando normale non lo è mai stato. Oggi a 60 anni forse si è rassegnato se in un'intervista ha dichiarato «Sì, lo so, finirà sulla mia tomba». Qui giace David Byrne. Ma perché quel completo oversize? Dumbarton è in Scozia. Fino a qualche tempo fa il paesaggio della città sulle rive del fiume Clyde era caratterizzato dalla grande fabbrica dove si distillava il whisky Ballantine, una grande costruzione di mattoni rossi che oggi non esiste più. Qui nasce David, il 14 maggio 1952, evento che anni dopo viene celebrato anche dal gruppo scozzese dei Franz Ferdinand nel remix della famosa Take Me Out. Quando a poco più di 2 anni i suoi genitori decidono di trasferirsi negli Stati Uniti, ma il cambiamento non sembra fare molto bene a David. È sempre stato un bambino timido, ma col passare del tempo la sua timidezza sembra diventare patologica. Se ne sta per ore con gli occhi fissi sul grammofono di casa, guarda incessantemente la puntina girare sui solchi del disco. Emma, sua madre, lo osserva di nascosto con mille perplessità. Nonostante la timidezza, David sembra comunque sentire il bisogno di comunicare. Solo che non sono i giochi da condividere con gli altri bambini quello che sembra davvero interessargli, ma la musica e i dischi sul piatto del grammofono. Non è molto, pensa Emma, ma almeno questo forse potrà essere di aiuto. Prima di arrivare al liceo, David sa già suonare la chitarra, il violino e la fisarmonica e ha un progetto in testa. Quando si diploma, sceglie una scuola dove può provare a fare quello che più gli interessa, diventare un artista. La Rhode Island School of Design è forse la migliore università d'arte in America. Sono i primi anni 70 e tutto sembra possibile in un posto come questo. Anche performance come quelle che David offre a una perplessa commissione d'esame. L'idea è quella di mostrare un pianoforte che enfatizza l'atto del tagliarsi barba e capelli, mentre una ragazza assunta per l'occasione mostra cartelloni scritti in russo. Ma forse questo è troppo persino per l'Accademia d'Arte. Essere strani non è male. Essere strani crea attenzione. Forse non amore spassionato, forse non un seguito di fan adoranti, perché sei troppo strano per queste cose, ma in qualche modo definisce la tua presenza nel mondo in maniera precisa, anche se a volte vincolante. Sei strano, la gente lo sa, e per questo ti permette cose strane, che a volte possono creare il vuoto intorno a te, ma almeno te le lasciano fare perché sei strano. Forse in quel momento non c'è nessun altro strano come David Byrne alla Rhode Island School, perché la stranezza di Byrne è una stranezza algida, distaccata. Lui non fa il pazzo, non si sforza neanche di sembrarlo come alcune volte fanno certi ragazzi quando si lanciano dai tetti o si infilano in un vespaio. Ma basta guardarlo, i grandi occhi scuri nel volto magro sempre molto spalancati, per capire che lui è diverso da tutti gli altri. Non somiglia all'ultima resistente ondata di hippie post-Woodstock, non sembra ambire a ballare nudo in mezzo al fango per sentirsi libero e rivoluzionario. Ma non ha nulla del decadentismo violento e distruttivo del punk. L'idea della triade sesso, droga e rock and roll è distante da lui come Alfa Centauri dalla Terra. A dirla tutta, Byrne sembra un nerd, uno di quelli che dopo l'avvento dei computer faranno la gioia degli sceneggiatori. Nonostante tutto, però, persino David riesce a farsi un amico. Succede spesso che più si è differenti e più ci si sente attratti verso l'altro. L'essere così diversi genera una curiosità nei confronti di quello che non si è e che si potrebbe essere stati. Se si è alti, si rimane attratti dalla piccolezza. Se si è scuri, dallo sguardo chiaro dell'altro. Se si è magri e solitari, dall'allegra carne di chi sembra godersi la vita in compagnia del cibo e delle persone. Quando David incontra Chris Franz, deve essere stato un po' così. Sì, ero un tipo strano, un borderline. Quasi da sindrome da Asperger, direi. Chris Franz, che arriva dal Kentucky, è biondo, quasi corpulento, una faccia da ragazzino simpatico che cela l'abitudine alla rigida educazione militare di un padre ufficiale che lo ha costretto a cambiare troppo spesso paese e amicizie. Per questo Chris è aperto, voglioso di tessere relazioni, stringere legami. Entrare in contatto con David non è facile, ma c'è la musica. Su questo campo aperto e non troppo impegnativo emotivamente, possono incontrarsi e lo fanno. Nei suoi vari spostamenti da ragazzino, Chris ha imparato ad amare Elvis Presley, Chuck Berry e Otis Redding. Il ritmo di quella musica gli piace e forse anche per questo impara a suonare la batteria. Scopre che la vita è soprattutto un battito e per lui quel battito diventa il centro delle cose, quello che può dare un senso alle sue giornate, in città e luoghi sempre diversi. Quando decide di frequentare la Rhode Island School, Chris ha già un solido passato musicale alle sue spalle. Distante dalle iperconcettualizzazioni di Byrne, forse il suo è un paesaggio musicale molto più fisico, ma lo abbiamo appena detto, gli opposti si attraggono. In quel periodo Chris Franz diventa forse la cosa più vicina a un amico che David Byrne sperimenta, e in più è un amico con cui si può fare musica. Ma dopo la delusione per come è stata accolta la sua performance del pianoforte e della ragazza con i cartelloni in russo dalla commissione d'esame, David decide di abbandonare la scuola per un po'. Girovaga per il paese, per un periodo ritorna persino nel Maryland, dove abitano i suoi, e forma una band a bislacca, i Bizzady, che spazia fra cover di Frank Sinatra e Lou Reed. Ma la Rhode Island, e soprattutto l'idea che in quel luogo si trovi l'unico amico che ha, riportano David sui suoi passi. Dopo un po' tornai per una visita, più o meno 2 anni dopo, direi. Tornai per vederlo e... erano insieme. Lui e Tina erano un'unica cosa, sempre insieme. Ed è così che ho conosciuto lei. E poi, più o meno insieme, abbiamo iniziato a vivere a New York, dove abbiamo messo sulla band. Inspiegabilmente, David stringe al suo ritorno alla Rhode Island una sincera amicizia con Chris e la sua fidanzata, Tina Weymouth, tanto da proporre ai due di tentare insieme l'avventura newyorkese, trasferirsi nella metropoli dove tutto può succedere e provare a fare musica sul serio. Sono già abbastanza avanti. David suona la chitarra e canta, Chris la batteria, ma anche il basso. E i due ragazzi si voltano verso Tina. Perché non avere una bassista donna? E il fatto che Tina non suoni lo strumento non ha importanza. Chris glielo chiede per favore, Tina lo ama e l'idea è troppo folle per non essere presa in considerazione da una come lei. E quindi si mette a studiare il basso, fino a diventare bravissima. Tina ed io iniziamo a legare mentre eravamo studenti alla Rhode Island School of Design, perché ogni sabato mattina adoravamo guardare la trasmissione Soul Train. Possedevo una piccola TV in bianco e nero e così invitavo Tina a guardare il programma con me, quando lo show era ancora trasmesso da Chicago, prima che venisse trasferita a Los Angeles. Let's all get together now and style a while with none other than the crown princess of soul, Miss Aretha Franklin, the Soul Train Gang and the Soul Train Line. A New York i tre vivono insieme, mangiano insieme, suonano insieme e soprattutto sperano insieme. Di sfondare, ovviamente. Ero sicuro che insieme avremmo potuto fare grandi cose. Scoppiavamo letteralmente di idee e dal desiderio di lasciare un segno nel mondo dell'arte e della musica. Quando ci trasferimmo a New York, il nostro piano era di farcela in 5 anni e per questo ci mettemmo a lavorare duramente. Poi, grazie a Ely Crystal e al CBGB, le cose si misero molto meglio di quanto ci aspettassimo. E in 3 anni riuscimmo a fare il nostro primo disco con la Sire Records. Ma prima di tutto devono trovare il nome della loro band. Un nostro amico, un pittore, vide su una guida TV il nome di questo film di science fiction, chiamato Talking Heads. Talking Heads, le teste parlanti, quelle che mandano segnali, che cantano, e con un programma preciso nella mente, che li porta il 20 giugno 1975 ad apparire per la prima volta come gruppo supporter in un concerto dei Ramones nel famoso CBGB. CBGB sta per Country Bluegrass Blues ed è il nome di uno dei locali della scena underground newyorkese più famosi dell'epoca, dove tutti i più grandi cantanti e gruppi sono passati. Un luogo che il regista Alan Parker descrive in questi termini. Per quelli che non hanno visitato il posto, pensate al bagno di casa vostra, ma solo un po' più grande, coperto di graffiti e con puzza di piscio praticamente ovunque, per il fatto che il proprietario, Ely Crystal, lasciava i suoi cani liberi di scorrazzare nel locale. Una cosa che il compianto Joey Ramone trovava spassosa. Fra il piscio dei cani di Crystal e il vomito dei musicisti strafatti, il CBGB lancia gente come Patti Smith, i Ramones, Mink DeVille, gli Stilettos, con una Debbie Harris agli albori, i Television e tutti quei gruppi che fanno il mondo della new wave e del punk americano degli anni 70. E anche i Talking Heads, che però sono decisamente atipici in quella scena. Non si drogano, non si sbronzano, non hanno i capelli lunghi, non sembrano appena usciti da un vicolo dopo aver passato la notte abbracciati a un bidone della spazzatura. Sono dei nerd, con i loro capelli pettinati all'indietro e le camicie bianche abbottonate fino all'ultimo bottone e con le maniche corte. Persino Tina, con il suo caschetto biondo ordinato e una giacchetta sulla castigata camicia, sembra quasi più una collegiale e non ha nulla della rocker sexy e dannata. I loro movimenti sono rigidi e stranamente composti. A riprova di ciò esiste un video girato da un amatore in bianco e nero che li ritrae mentre suonano Psycho Killer sul palcoscenico del CBGB nel 75. Sembrano fuori dal mondo. Forse contribuisce il fatto che David Byrne è così bello che sembra un angelo. Un angelo capitato lì per caso, che canta un ritornello in francese. I magnifici destini. David Byrne è un artista anomalo, un cantante che poco ha a che fare con l'immagine maledetta che si ha dei leader delle principali band che nascono negli anni 70. Con il suo fisico allampanato, l'aria da intellettuale asociale, la camicia bottonata fino all'ultimo bottone, la voce che nulla ha di potente, ma che al contrario mantiene volutamente stentorea. All'epoca la mia teoria era che essere un cantante fosse il lavoro perfetto per una persona timida, come me, perché compensava la mia incapacità di comunicare con gli altri. Dà vita insieme agli amici Chris Franz e Tina Weymouth, a cui in seguito si aggiunge il tastierista Jerry Harrison, a una band, i Talking Heads, che segna l'inizio di un nuovo genere musicale. Con loro la New Wave americana prende una strada laterale che nulla concede agli accessi degli altri big dell'avanguardia musicale. Non ho nessuna nostalgia per quel periodo. Non mi manca. La merda sui marciapiedi, gli strafatti, nulla di quel periodo. No, non mi manca nulla. Quello per me è... Per molta gente, quelle cose fanno parte del glamour, ma per me no. Tutto quello non faceva parte del glamour. Erano solo cose brutte. Di cose da dire i Talking Heads ne hanno, ma in maniera completamente diversa dagli altri. Senza violenza, senza rabbia apparente, con cinismo, autoironia, con una sorta di voluto distacco che però fa trasparire un freddissimo ipercriticismo nei confronti di tutto. Non c'è aspetto della vita americana che non passi sotto la loro lente da entomologo che disseziona tutti quegli strani insetti che formano il popolo americano. La musica che facevamo a quel tempo era basata su alcune regole molto semplici, ma tutte molto negative, tutte basate sul non si fa. Cose come non si fanno assoli di chitarra, oppure nessuno deve duplicare col suo strumento quello che un altro di noi sta suonando, oppure non userò cliché usati dalla musica pop. Forse è proprio il linguaggio, prima ancora della musica, che caratterizza i Talking Heads, come le parole della famosissima Once in a Lifetime. E potresti chiederti cos'è questa bella casa? E potresti chiederti dove va questa autostrada? E potresti chiederti sono nel giusto o sto sbagliando? E potresti dire a te stesso mio Dio, cosa ho fatto? You may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. Those rules were reaction to what. Erano regole per reagire a quello che avvertivamo come assurdo nella musica che circolava a quei tempi. Di tutta quella musica pop che parlava solo di cose irrilevanti, che non avevano nulla a che fare con la nostra generazione. Per questo volevamo togliere tutto il superfluo per capire cosa ci interessava veramente. E le ferree regole portano alla soluzione. Cercavo di scrivere di cose piccole. Carta, animali, una casa. L'amore è una cosa un po' troppo grossa. Forse anche per questo, dopo il primo album di esordio dal titolo Talking Heads 77, l'LP seguente si intitola More Songs About Buildings and Food, altre canzoni su edifici e cibo, cose piccole, semplici. I Talking Heads lo concepiscono insieme a un musicista che incontrano durante il loro tour in Inghilterra al seguito dei Ramones. Ed è in Inghilterra che David fa un incontro che segna la storia musicale del suo gruppo e in seguito anche del suo futuro. L'Inghilterra nel 77 è equamente divisa fra il punk dei Sex Pistols e il glam rock di Bowie. Forse i punk sono troppo occupati a sfasciare chitarre per accorgersi di un gruppo così apparentemente per benino come i Talking Heads, e quindi tocca a uno degli esponenti più originali del glam rock ad accorgersi di loro, Brian Eno. Immaginare l'incontro fra Eno e Byrne può essere un esercizio davvero divertente. Di David abbiamo già detto tutto quello che c'è da sapere, a partire dalle scarpette di tela fino alle camicie dal taglio preppy e l'aria pulita e vagamente allucinata dello psycho killer che forse si cela in lui. Dall'altro lato c'è Brian Eno, grandi occhi azzurri bistrati come quelli di una puttana d'alto bordo e con indosso più o meno gli stessi vestiti che la suddetta potrebbe felicemente acquistare. Camicie floreali dai lunghi polsini, pantaloni a zampa d'elefante e vita altissima, ridicolmente stretti. Completano il look una lunga pelliccia dal collo avvolgente, collane, lunghi capelli biondi che non riescono a camuffare l'incipiente calvizie. Insomma, l'epitomane del glam rock. Le prime esperienze musicali di Eno risalgono al college, ma sono cose strane, dove predominano i magnetofoni e i sintetizzatori sulle chitarre & co. I suoi primi lavori sono come tecnico del suono, ma la vera svolta avviene con l'incontro casuale con il sassofonista Andy McKay, che lo introduce al suo gruppo nascente e al suo leader, Brian Ferry. Nascono i Roxy Music e Brian Eno, che inizialmente si destreggia sullo sfondo mixando le voci e gli strumenti, si ritrova ben presto sul front stage. Solo perché un giorno incontrai Andy in una stazione della metro, iniziai a lavorare con i Roxy Music e come risultato oggi ho fatto carriera nel campo della musica. Se mi fossi spostato anche solo di 2 metri su quella piattaforma, o se avessi perso il treno, o mi fossi trovato nel treno successivo, oggi probabilmente sarei stato un semplice insegnante d'arte. Con i Roxy nascono 2 album considerati pietre miliari nella storia del rock dei primi anni 70. Roxy Music e For Your Pleasure, con una magnifica Amanda Lear che debutta sulla copertina fasciata di nero e con una pantera al guinzaglio. For Your Pleasure conosce un successo straordinario, ma proprio al termine del tour che porta i Roxy in giro per tutta l'Inghilterra, Eno decide di lasciare la band. La prospettiva di una vita da rockstar gli sembra noiosa. Quello che veramente lo diverte è la sperimentazione. Non solo, è stufo anche di Brian Ferry. Quando Eno incontra il giovane gruppo dei Talking Heads, qualcosa vibra dentro di lui. Nelle teste parlanti intravede una possibilità sperimentale che lo affascina. Propone a Byrne di produrre il loro prossimo disco e, come ben ricorda Tina Weymouth, tutti insieme decidono di sì. Le case discografiche, dopo il primo disco, non ci dissero più cosa fare. Avevano capito che non c'era speranza. Con la collaborazione di Eno nasce More Songs About Buildings and Food. Seguiranno altri 2 dischi, Fear of Music e Remaining Light, capolavori, a partire dalle copertine. Forse la più famosa è quella di Remaining Light, con i ritratti dei 4 componenti della band con sopra delle maschere di colore rosso. L'idea è venuta a Tina, che all'epoca seguiva dei corsi all'MIT sul rendering dei computer. Insieme a Chris e l'aiuto di Scott Fisher, che all'MIT si interessava di realtà virtuale, Tina ha l'idea per un lato della copertina dei loro volti rimaneggiati e per l'altro lato 4 aerei che sorvolano l'Himalaya. Il risultato è una copertina che riflette il senso della musica disturbante del gruppo. Per un attimo Tina prende anche in considerazione l'idea di sovrapporre il volto di Brian Eno su quello degli altri componenti del gruppo, una sottile allusione all'egotismo del musicista, evidentemente non sopportato da tutti i componenti della band. La collaborazione di Brian Eno coi Talking Heads si ferma con Remaining Light, dopodiché ritorna ai suoi progetti di musica ambient e all'Inghilterra. Eppure qualcosa della sperimentazione di Eno rimane attaccata a colui che del gruppo ha più la tendenza a cercare strade nuove, che ha orrore dei percorsi troppo facili, delle soluzioni alla moda. Mentre la New Wave è ancora fermamente in ascesa e i Talking Heads vengono vissuti come una delle band più rappresentative del genere, Byrne inizia ad agitarsi. Non gli bastano quelle sonorità, inizia ad ascoltare musica diversa, a interessarsi alla world music, alla musica latina, a tutte quelle forme musicali che ancora non sono visibili, conosciute, irreggimentate. In questa agitazione il pensiero di David torna a Brian Eno, con il quale decide di riunirsi per un album lontano dai Talking Heads. Nell'81 dunque, appena un anno dopo Remaining Light, Eno e Byrne creano My Life in the Bush of Ghosts, La mia vita nel bosco degli spiriti. È un disco strano, dove nessuno di loro canta, ma è pieno di voci. Voci registrate da programmi radiofonici, da canti etnici, in Oriente e in Occidente, in Africa e in America. La voce che esce fra tutte è proprio quella di David Byrne, perché l'incontro con Brian Eno svela l'anima più vera e profonda di David Byrne, quella più innovativa e originale. E dopo averla avvertita così intensamente con la creazione di My Life in the Bush of Ghosts, sarà sempre più difficile per David il ritorno nei binari già percorsi della musica New Wave. È da questo momento che la strada dei Talking Heads è già segnata. David Byrne è il protagonista dei nostri Magnifici Destini. Personaggio davvero strano e bizzarro, sul suo percorso ha incontrato persone che sono state in grado di convogliare e rendere possibile la piena espressione del suo talento artistico. Da Chris Frantz, con il quale ha fondato insieme anche a Tina Weymouth il mitico gruppo dei Talking Heads, a Brian Eno, da prima produttore di ben 3 dischi delle Teste Parlanti e poi coautore insieme a Byrne di un disco strano e innovativo come My Life in the Bush of Ghosts. Eno diventa il propulsore che porterà Byrne in capo a qualche anno a lasciare la band per seguire strade ancora poco battute come la world music. Mi piace collaborare con la gente perché mi tira fuori dalla mia zona di sicurezza e questa cosa mi piace. Di sicuro la strada che Byrne intraprende dopo la fine dei Talking Heads è molto lontana da quella sicura e tranquilla dei binari conosciuti. Lui prova cose completamente diverse tra loro. Gira un film, si occupa di teatro, scrive musiche per balletti e soprattutto incontra gente, artisti che attirano la sua attenzione e con cui immaginare una collaborazione. In un mondo sempre meno recintato da confini geografici, la ricerca che negli ultimi anni ha portato David Byrne a interessarsi alla world music conosce una svolta essenziale con la collaborazione con Ryuichi Sakamoto. Sakamoto è forse il musicista orientale più conosciuto all'estero, insieme all'indiano Ravi Shankar, colui che ha insegnato ai Beatles a suonare il sitar. La formazione di Sakamoto è molto meno spirituale, più galvanizzata dalla crescente influenza dell'elettronica nella musica dei primi anni 70. Dopo aver studiato etnomusicologia con l'intenzione di diventare un ricercatore, si unisce a due conoscenti, fondando il gruppo Yellow Magic Orchestra. A vederli sono un misto fra i Kraftwerk e i Devo, e la loro musica riesce ad essere a volte davvero irritante con tutto quel picchiettare sulle tastiere. Eppure il loro successo, clamoroso in patria, raggiunge anche l'Occidente. È l'inizio di una brillante carriera che però a un certo punto Sakamoto interrompe per intraprendere un percorso da solista. Dopo un certo numero di album di successo, Ryuichi incontra David Sylvian, leader dei Japan, con cui inizia una proficua collaborazione che raggiunge uno dei suoi picchi migliori con la canzone Forbidden Colors, contenuta nella colonna sonora del film Furio. È la prima di una lunga serie di colonne sonore che rendono Sakamoto famoso in tutto il mondo. I Il piccolo imperatore Puyi, che si lancia per le scale sotto un lungo drappo giallo, è solo una delle fantastiche immagini che il film L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci ha scolpito nelle nostre menti. Ma l'incanto che il film trasmette riceve una spinta importante grazie anche alla musica. Percussioni e campanelli dolcissimi che si mescolano al violino in una melodia orientale che trova riposo in una rivisitazione occidentale. È l'incontro di due culture ed entrambe portano rispetto l'una all'altra. La colonna sonora del film di Bertolucci svela esattamente queste due anime perché composta dalla personalità dei suoi compositori David Byrne e Sakamoto, entrambi fortemente influenzati dalle loro radici, ma anche perfettamente in grado di accogliere le sollecitazioni di culture diverse dalle proprie e di trasformare il tutto in uno spazio musicale di grande bellezza. La colonna sonora vince un Oscar nel 1988. Chiamati da Patrick Swayze, Byrne e Sakamoto, insieme al compositore cinese Kong Su, salgono sul palcoscenico per prendere la statuetta d'oro. A sottolineare la commistione fra i due artisti, Byrne indossa una giacca con un collo orientale, mentre Sakamoto è impeccabilmente elegante nel suo smoking di fattura occidentale. Byrne ride, dice che sì, è molto divertito, e con la sua solita aria fra lo stralunato e l'ironico cede il posto al giapponese che compitamente ringrazia il pubblico. The winners are Ryuichi Sakamoto, David Byrne e Kong Su for The Last Emperor. This is a lot of fun. I'll be real quick. Thanks to Bernardo. Thank you to Jeremy. This is a lot of fun, but it's more fun doing it. Thank you. Dopo L'ultimo imperatore, Byrne compone altre colonne sonore, senza però mai raggiungere l'eccellenza della collaborazione con Sakamoto. Sono così tante le cose che lo interessano che non sempre riesce a eccellere in tutto. Ma in tutte riesce a dare un suo segno, una sua lettura. Dalla fotografia alla bicicletta, che diventa il suo hobby preferito, tanto da scriverci su persino un libro, dal titolo I diari della bicicletta. Recentemente ha anche un blog con una sua web radio personale dove 24 ore su 24 vengono trasmessi i suoi brani preferiti di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo. Ognuno trova il suo posto e uguale dignità, perché l'unico filtro che David pone alla musica è quello dell'onestà. Parto dal presupposto di essere un essere umano in mezzo ad altri esseri umani. E ogni tanto ci prendo, ma non lo posso sempre sapere. E di certo non posso plasmare il mio lavoro basandolo su considerazioni di marketing o su quello che potrebbe piacere alla gente. Così facendo potrei solo sbagliare.